Capitolo 17. Venezia, 7 ottobre 1546. 45 ducati. Più 30, 81, 16. Sottrarre la paga delle ragazze, le vivande e il vino. Demetra, non c'è più inchiostro. La voce arriva scherzosa e irriverente dalla cucina. Usa la memoria, Ludovico, la memoria. 45 più 30, 75. Più 81, 75, più 81. Grandi figli di buona donna, cara mia, se ti prendono di mira non ti mollano più e vorrebbero infilarsi dovunque, ascoltare tutto. Braita come un dannato. E intanto la mano rovista sotto la gonna. 75 più 81 fa 156, sì, più 16. Ah, ma qui a Venezia hanno vita dura gli sgherri di carafa. Mica ci lasciamo mettere i piedi in testa. Venire a ficcare il naso nei nostri affari. Ce li risolviamo noi, i conti con gli eretici e i bestemmiatori. Più 16 e pianta la stronzo. Più 16, 172. E poi, bellissima, tu lo sai chi è il cardinale Carafa, no? Te lo dico io, un vecchiaccio rugoso e sdentato, che se lo vedi di notte te la fai sotto dalla fifa. Io l'ho conosciuto, sì, ma mica si fa vedere molto il vecchio. No, non gli piace, preferisce l'oscurità, come i diavolacci, come gli stregoni. Con la coda dell'occhio scorgo un frullare di mani dentro sottane e scollature. Ecco appunto, sottrarre la paga delle ragazze, dunque. Un gran spione! Vorrebbe sapere tutto di noi. Io poi, cara mia, sarei il primo della lista solo perché mi piacciono il vino e le puttane. 12 più 15 più... Non si sa mica quanti anni ha. Quello c'è da sempre. Quello già spiava quando io e tua madre prendevamo ancora il latte. Spiava l'imperatore, il re d'Inghilterra, spiava Lutero, spiava i principi e i cardinali. Poi il papa lo ha fatto contento, gli ha messo sull'inquisizione. Così sì che può divertirsi. E si è fatto riconoscere, altro che... Ha richiamato tutte le sue spie sparse in giro per l'Europa. Sì, per infiltrarle dentro la chiesa. La paga delle ragazze. Quello è nato per spiare, te lo dico io, è pericoloso. Se non fosse che a Venezia stiamo in campana, quello verrebbe anche qui, a metterci in riga, tutti quanti. Spiava Lutero, 27 scudi, spiava Lutero, richiamato tutte le sue spie sparse in giro, 27 più 42. L'Inquisizione c'è da sempre, già spiava quando io e te prendevamo ancora il latte, spiava Lutero, 27 più 42 fa 69, c'è ancora tutto il resto, richiamato tutte le sue spie per infiltrarle dentro la chiesa. L'Inquisizione preferisce l'oscurità. 69. Tu lo sai chi è il cardinale Carafa? Aggiungi 15 del vino. Non si sa mica quanti anni ha. Quello c'è da sempre. Spiava l'imperatore, spiava Lutero. Spiava Lutero. Alzo gli occhi. I conti si dissolvono. Solo le ragazze, niente più mulinio di mani. Sedia vuota. Pressione in testa, dietro gli occhi e alla base del collo. Pesa come un sasso. Dove è andato? Un'alzata di spalle. Mostrano le monete tra le dita. Fuori, è notte. Scivolo sul selciato viscido. Un blaterare lontano dice che va verso Rialto. Corro, veloce o lo perdo, corro. Un angolo, un altro, un ponticello, seguendo la sua voce. È una canzone biascicata in veneziano. Giù, a dirotto nella notte. In fondo alla calle, un'ombra grassa ondeggia di vino. I miei passi pesanti lo fanno trasalire. Sguainano stiletto lungo almeno due spanne. Non temete, sono il gestore del caratello. Ho pagato, messere. Lo so, ma non avete assaggiato il vino che teniamo in serbo per gli ospiti di riguardo. Mi prendete in giro? Strizza gli occhi arrossati. La testa deve girargli parecchio. Niente affatto, offre la casa. Non posso permettervi di andarvene senza aver assaggiato quella bottiglia. Ah, beh, quando è così, se volete farmi strada, vi seguirò volentieri. Lo afferro sotto il braccio. Ce la fate a non finire in canale? State tranquillo, Bartolomeo Busi ne ha prese di peggio. Bartolomeo Busi, un tempo frate teatino, prima che i corvacci neri di Carafa mi buttassero fuori. Solo due anni fa, sì signore, servo di Dio, e a mio modo lo sono ancora, e che cazzo. Vado con le puttane, certo, forse esagero un po' con il vino, ma sono cose che a spiegarle bene, al buon Dio, non fanno troppi problemi, no? Adesso mi tocca rompermi il culo all'arsenale. A cucire vele tutto il giorno. Guarda qua che mani. Bastardi. Al convento non era così. Non si faceva una brutta vita. Badavo all'orto, stavo in cucina, girava un sacco di gente, ospiti importanti, cardinali, principi. Pensate che un convento sia un luogo di clausura? Vi sbagliate. C'è un via vai continuo, anche di donne. Stavo lì all'inizio, brutti maiali. Non volevo mica fare carriera, che sono sempre stato ignorante. Spioni. Sì, d'accordo. Ogni tanto mi imboscavo qualche patata, un pezzo di manzo, per rivenderlo fuori, ma niente più. E invece hanno tirato fuori la storia che ero un sodomita. Un sodomita! Lo sapevano tutti che mi sono sempre piaciute le donne, no, i ragazzini e tutte quelle porcherie degli abati. Tutte scuse. La verità è che aveva preso una brutta piega già da tempo, caro mio. Si era capito che spioni, delatori e sbirri stavano prendendo tutto in mano. Hai voglia di dire voto di povertà, rinnovare la chiesa, riscattarsi dai ladroni di Roma. Tutto alle spalle di quel sant'uomo di Caetano d'Atiene. Ah sì, santo, grande coglione. E chi c'era? Lo sapete chi c'era? Lo sapete chi se lo girava come un burattino? Ve lo dico io, il padre di tutti gli spioni, Giovanni Pietro Carafa. Il vecchiaccio, sì signore, proprio lui. Puh. Quello, tra 100 anni, quando le nostre carcasse faranno schifo pure ai vermi, sarà ancora lì a spiare. Quello diventa papa, ve lo dico io. Ma tu pensa, 40 anni fa era già vescovo, 40, caro mio. Legato pontificio alla corte inglese e spagnola, dovevate sentirlo. Ci raccontava che si era tenuto sulle ginocchia l'imperatore che aveva 7 anni. L'imperatore! Prima del 20 era arcivescovo di Brindisi. E poi che fa? Sente la puzza di merda. Lutero, i casini. E lui che fa? Molla tutto, si fa per dire. Rinuncia alle cariche e mette a lavorare i suoi spioni in tutta Europa. Intanto qua fa il santo insieme al povero Gaetano, il coglione, e fonda il nostro ordine. E così, dopo il 27, dopo che te le scaccia un cagato in San Pietro, sono tutti che sbavano da lui, a pregarlo, a implorarlo di tornare, di mettere le cose a posto. E lui che fa? Manco a dirlo accetta, ma dice: le cose devono cambiare, bisogna fare sul serio, se no Lutero ci manda tutti a spasso. E allora dagli addosso a tutti quanti. Nel 37 lo fanno cardinale, a dare le direttive per emendare la Chiesa dai corrotti, dai sodomiti e dagli eretici che sono dappertutto. E così gli spioni non te li levi più da dosso, sono dovunque. E non si stanca mai, sempre a tramare, come se non dovesse morire mai. Ma dico io, chi glielo fa fare? Nel 42 il Papa, altra brava persona, gli regala la congregazione del Santo Uffizio, un bel vestito, tagliato su misura per lui. Bastardi! Lui dice: è arrivato il momento di sistemare le cose. E che fa? Richiama tutti gli spioni, tutti! Anche quelli che contavano le pisciare di Lutero. Li ho visti, spagnoli, tedeschi, olandesi, svizzeri, inglesi, francesi, tutti al convento. Ci sono passati tutti a prendere i nuovi ordini. E lui dice: signori, i tempi sono cambiati. C'è un tempo per seminare e uno per raccogliere. Questo è il tempo del raccolto. E giù, di nuovo a spiare. A me mi fottono perché sta merda non mi è mai piaciuta. Va bene fare pulizia in casa propria, ma tutto sto guardare nelle mutande, aspettare che tu dica la parola sbagliata per prenderti e processarti. Dio non è un tribunale, è amore, cazzo. Lo dice Gesù, non io. Gesù Cristo, in persona. Questi niente, invece. Ti devi cagare addosso dalla paura e basta. Allora vai con l'accusa. Fra Bartolomeo e il sodomita, con tanto di testimoni. Schifosi. E mi è andata bene, sapete? Che se non ero un pesce piccolo, mi spiccavano il capo dal collo. E adesso mi tocca lavorare tutto il giorno all'arsenale per un pezzo di pane. Da vecchio, quasi 50 anni. È per quello che mi piacciono le puttane e bevo il vino. Ah, ma voi siete un gran signore. Il vostro bordello sembra il giardino delle delizie. Che femmine. È che non me le posso permettere quella paga di fame che ci danno. Solo toccare, niente di più. Perdonatemi, sapete, quando penso a quei maiali mi va il sangue alla testa. La tisana di Demetra lo ha un po' svegliato. E già lancia sguardi interessati alla bottiglia che ho posato sul tavolo. La stappo. Tedeschi, ne avete incontrati tedeschi al convento? Tedeschi sono i suoi preferiti. Gente affidabile, teste quadrate. Poi ci sono gli spagnoli. Sì, ma perché gli dici chi devono ammazzare, loro lo ammazzano. Bastardi. Mi interessano i tedeschi. Gli riempio il bicchiere. I tedeschi, certo, li ho visti. Sempre a parlare di Lutero. Tracanna il vino. Ce lo diceva lui, Carafa, che i tedeschi annotano tutto, sono precisi. Mica come noi straccioni che ci perdiamo in chiacchiere. I più affidabili. Ricordi qualche nome? La pancia sobbalza contro il tavolo. Chiedete troppo. I nomi. In un convento sei sempre solo Bartolomeo, Giovanni, Martino. I nomi non vogliono dire niente. Quanti ne hai visti? Un rutto al vino rosso. 6, 7 almeno, forse 10. Ma contando pure gli svizzeri, che parlano la stessa lingua. Tedeschi, gente pericolosa. La testa comincia a dondolargli. Gli passo i soldi sul tavolo. Dì alle mie ragazze di trattarti bene. Si riprende. Signore mio, Dio vi benedica. Ve lo avevo detto che eravate un gran signore. Se volete, vi racconto anche qualcos'altro. Quando avete bisogno dei racconti di Bartolomeo, basta un fischio.